va bene, adesso va bene, ho rintracciato anche alcuni difettini che ne aveva prima, roba di vecchiaia, però adesso questo dovrebbe andare veramente bene, dovrei essere quasi sicuro che problemi non ne dà. Riccardi, adesso lo chiudo e poi al limite io uno di questi giorni mi dai il tuo, io ti lascio questo e così te lo controllo, gli cambio quei selettori e gli controllo le correnti perché probabilmente c'è qualche problema e gli do un'occhiatina al tuo, e poi così se è una cosa semplice, perché non ho molto tempo, se è una cosa semplice di allineamento te lo metto a posto e te lo ridò. Ho capito Fabri, scusami, stavo chiamando, sì, va bene, così almeno esco meglio con un pochino di più, pochi watt in più, ok. Va bene, dopo ci sentiamo, vado a prendere intanto il caricatore che così mi mandi un messaggio che canale usare. Va bene, dai, adesso lo chiudo questa radio e poi comunque uscirò con l'altra. È importante vedere che stia uscendo bene. Perfetto, grazie Gianni, ci sentiamo fra un po'. Sì, ma figurati, non c'è problema. Andà bene, avanti Riccardo. È andato a prendere il caricatore. Ah, ecco. Avanti. Chi c'è sul 10? Avanti. Ehi Antone, sei super gettonato, detto. Ehi vabbè. Accontentati Antone. C'era Riccardino, ma si è allontanato, non so a prendere che cosa. KK, ehi Antone, tutti andati, ce ne sono. Chiodo Ruggito se n'è andato, Riccardino si è allontanato e sono rimasto solo io. Infatti ho detto chi c'è su 10? Non ha risposto nessuno e sei poi uscito tu. Ieri notte abbiamo chiuso all'1:20. Non so Antonio se la va a volare, comunque il padre adesso si sta dando da fare, quando vuole già riesce a... perché prima usciva tutto saturo, tutto buio, non capivo nulla, infatti gli ho detto dagli una trinzata, poi da quando gli ha dato Claudio con la radio, col baracchino diciamo, la LAN 48, ha cominciato a uscire bene, e da lì è partito, ha cominciato a fare prove, controprove, è uscito veramente bene anche con quella LAN 48. Sì, l'abbiamo detto in tanti di mettersi a posto l'antenna, anche perché così fa partire gli apparecchi quando attacca lineari con l'antenna piena di stazionari e fa un patatrac, brucia tutto. L'altra sera è sparito, infatti pensavamo che avesse bruciato il lineare, prima è uscito tutto quanto gracchiante, l'abbiamo detto che stava uscendo male, cosa, non doveva, continuava, e vabbè. Poi alla fine è sparito, non so cosa sia successo, è sparito di colpo, ma adesso sta uscendo bene, la verità. È che lui grida al microfono, ti fa da tampone nell'orecchio. Invece Claudio ha la voce più delicata, più pacata, esce bene, la modulazione è bella limpida e tranquilla. È forte allo stesso tempo, però è tranquilla come modulazione, invece lui grida. Sì, è un apparecchio che pompa, che va bene. Io mi sono preso il 3009 invece che il 6009. Il 3009 è quello analogico. Esatto. E voi te lo faccio sentire. E gli ho applicato l'MB più 5. Facciamo il tempo di attaccare l'antenna. Attenzione Antonello, mi ascolti? K, questo qui è l'MB più 5 che ho modificato. col 3009, là. Io questo apparecchio lo amavo perché usciva bene di radio, l'ho amato per quello, non tanto per l'estetica, quanto perché usciva bene di radio. Allora, ti dico, l'ho preso, diciamo che è nuovo, c'ha ancora la garanzia, l'ho preso ancora che c'aveva il nylon sopra, me l'ha venduto Eugenio di Porto Torres che si doveva comprare un altro apparecchio, gliel'avevo chiesto scherzando, lui mi ha detto guarda se ti serve ancora te lo do, e me l'ha dato lui. C'aveva ancora il nylon, quell'adesivo attaccato sull'apparato, non c'ha un graffio, niente, è perfetto, c'è ancora la garanzia. Sì, esatto, è nero col frontale color alluminio, le manopole tutte cromate, no, è molto carino. Sì, questa qui è una radio fatta col vecchio stampo, Antonè, c'ha ancora componenti tipo come si facevano una volta, eccetera eccetera, quindi anche per quello l'ho comprata, perché adesso ci sono componenti piccolissimi che non ci si può lavorare, cose. Questo qui trovi tutti i pezzi tranquillo, niente, mi è piaciuto, l'ho messo qua nella stazione, va benissimo, dai. Ma non ce n'è molta gente a Sassari che lavora su quei circuiti lì, capito? Magari quelli in continente si arrangiano, lo sanno, qua si perdono per una cazzata, si perdono subito. Cappa, adesso provo con l'aiutino a vedere come va. Allora, quando sono arrivato a Santiago 7 stavo uscendo con 3 watt e mezzo perché l'ho abbassato io, capito? Adesso come arrivo, guarda, 1, 2, 3, prova. I picchi come sono, positivi o negativi? Tanto, a picchi oppure è fermo l'ago? Cava cava, allora va bene, dai. La microfonia è buona, ho fatto il microfono, questo qua me l'ha lavato lo stesso che mi ha venuto l'apparecchio, però gli ho sostituito il cavo, gli ho cambiato la capsula, cioè il cavo me l'ha sostituito Luca Maico, e poi gli ho cambiato io la capsula, le verdi, e ho visto che va bene. Perché con tutti i canali che ci sono si mette nel canale adiacente a fischiare. Ciao Antonello, ben ascoltato di nuovo. Sì, io. Riccardo. Ehi, un attimo, fammi rispondere, calmate però, anche te. No, è che stavo sistemando, stavo prendendo la carica batteria e poi bisogna pulire la cucina, sistemarla, tutto, il filtro, e quindi sono mancato, scusatemi. Deve pagare la multa. Riccardo si è multato. Sono multato io. La guardia di finanza ti fa la multa salata a te, ti fai anche la cena con quanto è salata. Così è. Avanti Antonio, già gli mancano la risposta. Ehi vecchi, dai, non siamo tanto vecchi, ancora baccolino non ne abbiamo. Ci avevo le stampelle sino a poco tempo fa, ma adesso le ho buttate via, grazie a Dio. No, assolutamente no. Il medico del lavoro ha dedotto che io non sono più abile al lavoro e quindi non mi riprendono. Devono fare questa riunione all'ispettorato del lavoro per trovare un accordo e l'hanno rimandata con l'ospedale del coronavirus, roba di 5-6 volte. Adesso l'hanno mandata direttamente a settembre, capito? E io devo stare aspettando a loro che mi diano la liquidazione dopo settembre. Eh sì, Antonè, ma uno diciamo che si aspetta che ve la diano subito, almeno una parte. Invece così rimanda, è un casino, capito? Io se non avessi avuto qualcosa da parte, me la sarei presa in gola le bossa là. Ma infatti se ce la faccio, sì, se ce la faccio mi organizzo e faccio qualche altra cosa, vediamo un po'. Bisogna sempre vedere quest'ulcera, tutto quanto insieme, capito? Non è che sia solo l'operazione alla gamba. Io ho anche quell'ulcera sotto al piede da 5 anni, che non passa mai. Ecco. Avanti Fabri. Eccomi qua. Come sta uscendo bene, scusando, se sto disturbando. Se sto uscendo bene, ve l'ho appena chiusa. Sì, Fabri, sta uscendo bene. Ascolta, sono arrivato leggermente il Michigan, si vede che sto uscendo con un microfono di baracchino. Sì, basta, abbassa appena Michigan, però già esce bene. Poi c'è Antonello da Ussi, da lontano ti ascolta meglio forse. Antone! Ciao Antone, dai, buona carica. Ti è mancata la radio, ciao. A me? Forse ho premuto male, dai. Guarda a vedere adesso. Adesso va bene. Perché questo tasto, se non stai a prendere, conviene mettere quello fisso, e il coso adesso è fisso, così almeno si vede se esce. Perché a volte lo premo troppo poco e non mi fa uscire. Ho visto, un attimino sei mancato. Allora, adesso questa la metto via e mi ricollego e uso l'altra. Allora, aspetta che la metto via, che sono sicuro che adesso va bene. Aspetta, Riccardo. E a poi Fabri, comunque saluto ad Antonello Barracuda e ciao Antonello, buona carica alle prossime. Gianni. Ehi, l'ho già salutato Antonello, dai. Non c'è problema. Andrà a fare carica adesso, io l'ho già fatta la carica. Quindi posso anche trattenermi sino alle 8:15, così poi faccio da mangiare al cane e scendo giù a portarlo. Capito? No, non è quello, ti volevo chiedere un'altra cosa. Nara! Ti stavo dicendo, ma tu l'hai più sentito al pomeriggio che non si è più fatto sentire? Ogni tanto già lo sento, la scorsa settimana mi pare che l'ho sentito. Lupo Grigio, se non si decide a mettersi questa antenna benedetta, come fa a farsi sentire? Con un portatile, poi proprio adesso che ci sono portanti, di tutte le maniere ce n'è, capito? Non capisco, così è andata di moda la portante, che adesso quest'ultimo periodo sono solo portanti. Ma deve essere perché la mamma dell'imbecille ha partorito, capito? Cappa. Chi è che chiama Riccardino? Avanti. Ma lo vedi, ti chiama e poi non risponde. Boh, non lo so, qualche volta ogni tanto mi chiamano e non rispondono. Vabbè, lasciamo stare. Ecco, vediamo adesso che quello che sta uscendo con la mia, quella che uso di solito, col microfono suo. Una fragosa, Fabri. Questo è il suo microfono, l'MC60, dai, era l'altra, però c'è lo stesso, magari c'è anche meglio, però non avevo voglia di scollegare questo microfono, avevo quello veloce e volevo provare. Capito? Ti ricordi? Adesso fammi sapere, anche domani, se me la vuoi portare da Roberto, vedi tu fammi sapere, io gli porto questa e ti prendi la mia, così te la usi e ce l'hai che questa va bene, e poi magari con calma mi controllo quella lì, gli do un'occhiata e gli do una revisionatina un po' a tutto. Ehi, Fabri, dopo per caso ti posso chiamare che volevo sapere di questa radio, che non so molto, perché ci sono molti tasti che non so che se sono importanti, per conoscerlo anche un po' di più. Sì, te l'ho detto, qualsiasi cosa puoi chiedere, però comunque puoi attivare il manuale, c'è il manual service, il manuale di istruzioni e c'è scritto tutto, poi se qualcuno non la capisce me lo puoi chiedere anche qui dove vuoi, capito? Ah ok, no, non lo sapevo che era nel manuale di servizi, no, allora me lo guardo lì, non c'è problema. Va bene, sì, forse domani passa babbo e gliela porta a Roberto. Ma comunque non scapisce, non ho capito, era problema della scheda o che cosa? Sì, un problema sulla scheda, ho trovato il difetto e l'ho messo a posto, poi ho messo a posto altri due o tre difettucci che aveva e via, dovrebbe andare bene, quindi adesso è a posto. È stata una ricontrollatina così veloce, il padre era già stata controllata, è a posto la radio adesso. Così tu ti usi quella lì, momentaneamente, e io così se ce la faccio me la porto qua, gli smonto e ti cambio quel particolare che sai cosa è, che problemi ha, poi vedo un attimino di controllare, la controllo qua in stazione, vedere gli assorbimenti, quanti watt dà e vedere un pochettino come va, la controllo io e così ti faccio sapere qualcosa di più, poi fai sapere se me la porta domani, io passo, se no un altro momento, come ti viene bene, così poi domani a pranzo ti riporta questa e ce l'hai sempre la radio, così la mia non è un problema che se l'ho messa a posto. E che hai avuto fretta tu, Riccardi, aspetta un attimino, un po' di tempo mi serve, perché quando metto a riparare una cosa alle volte la faccio veloce, alle volte ci vogliono giornate intere, ore, ma non perché ci vuole tempo a trovare il guasto, alle volte ci riesce, alle volte non si può nemmeno, però quando si riesce, però alle volte ti ripeto, ci vuole tempo. Scusami, mi sono innamorato con la radio, non potevo stare senza. Poi visto le prede, vabbè dai, comunque, ma esteticamente in che condizioni è quella radio? Ma bene, ma ha qualche graffietto sopra dove c'è il controllo box, però va bene. Va bene, dai. Poi mi fai sapere anche più tardi se parlare con tuo padre, mi puoi mandare anche un messaggio, una telefonata per vedere se me la passi, così se me la passi io ti lascio la mia e domani a pranzo si ritira questa qua e ti usi questa, poi come te la metto a posto, gli do un'occhiata, ti dico se è possibile fargli, vabbè quello lì sì te lo sostituisco, però poi se è possibile fargli una revisione veloce che non ha grossi problemi, te la faccio, così te la ridò, voglio capire perché esce con pochi watt, capito? Ma non dovrebbero essere i finali e non credo proprio, penso che sia un problema di corrente. E capo, va bene, sì, come detto, provo a passartela domani e ti faccio sapere, mia, aspetta, ti chiamo, io ho il telefono, scusa un attimo Gianni, faccio in fretta. No, io sto chiudendo che devo andare a far da mangiare a Tyson, là. Che poi lo devo portare in giù, dai, ci sentiamo più tardi magari. Ciao Fabrizio, ciao Riccardino, dai, alle prossimine, buona carica quando l'ha fatto. Ok, ciao Gianni, fai mangiare bene a stare con me, e Fabrizio adesso ti chiamo, va bene, a dopo già se ci sei. Ciao Gianni. sei poco arrabbiato. Vabbè Riccardi. Mi hai riconosciuto? Sì, come sei così basso? Sono basso, io essere basso. Aspetta, aspetta, devo fare un po' di... Lasciato da schifo. Basso di segnale intendo, ma arrivavi 9, o 3, 9, 6, 7. Il radio fai schifo, mettilo come la prima. Boh, non lo so cosa è successo. Beh, boh, se non lo sapete voi, io non mica lo posso sapere. Sono un po' bruciacchiato al mare, mamma mia. Ho capito, sei andato al mare? Sono bruciacchiato, madonna. C'ho anche un po' di freddo. E scappa. Non è entrato nessuno. Già c'era qualcuno, sono tutti scappati. Tutti scappati, cavolo. C'era doppio room, Fabrizio, Natalino, doppio room. No, doppio room l'ho già detto. Poi c'era Roberto, Fabio. Sono tutti scappati, Claudio. Sono tutti scappati, come ho detto. Ho capito. Ma sta ancora uscendo a schifo. No, no, sono. Però il segnale è bassino. Cioè, mi arriva più 9, 6, 7. Lo so. No, non so, sto impazzito uscendo solo con 10 watt. Mi dovete arrivare almeno 9-10 da lì, da. Non si manco 9. Fallo anche 9, avanti. Boh, non lo so, vediamo. Vuoi che o non cambia niente, cambia, non cambia niente, metterlo, non metterlo. Va, non lo so, aspettare, provo a vedere se l'antenna è mezzo scollegata, boh. Controlla, vale. Non so cosa dire. Boh, che si dipenda da me, ma non credo. Aspetta. C'è un attimino. Non è ne ho uno e due. Aspetta, infatti sto facendo con pochi watt, no, e io sono il problema. Ma certo stai facendo 11 watt. Cosa? Hai detto che stavi uscendo con 10 watt. Sì, adesso sto uscendo con 10 watt, però dovrei essere più forte. Ma siamo 7, sì. Sono cicli, ti mando la foto su WhatsApp. Ma il radio già va bene, va benissimo il radio, allora è il segnale che è basso. Ma non lo so. Cioè, non ho anche visto, non riesco ad arrivare a 1,5. Resta sotto l'1. Aspetta che metto la scala. Cioè, sto uscendo solo con 10 watt giusti. Boh, non lo so. E questa radio? Cosa vuoi ti dica? Cosa vuoi? Ma anche io la sto usando. Lampadino con lo Smither, Luca. E lo mio Marco, ciao Marco. Perché Marco? Tu sei proprio stesso, perché ci vuoi buttare? No, così. No, ma Riccardo qua è 9 più 15. All'anima che differenza, cioè tu sei più in alto, dovresti ascoltarlo anche meglio. Magari è da tarare, mi tutto lì. No, più in alto sei tu, io sono più in basso. Più in alto sei tu di me, ma molto più alto. Ma tu sei più vicino a lui. Ma cosa c'entra? Non c'entra niente. Io tendo a scendere verso il basso. Cioè, a te è lineare, capito? Marco, è diversa la posizione mia dalla tua. Tu sei in alto, io sono in basso. Sì, non credere, Milu, perché se valutiamo la tua altezza e la mia... caspita, io sono molto più in basso, Lu, fidati, fidati, come altezza sul livello del mare c'è più basso. Sì, c'era da tarare, non so, ma qual è il nuovo parato? Sì, sì, sì. Ma non li do, non sto lì a abitare niente, non ne tocco neanche. Non c'ho più la voglia di aprire baracchini e fece abitarli, guarda. No, ma è stato di alleccire, rimane così, stabili e luci. Sì, ricordo anche il mio era... Guarda che quando è arrivato era drammatico, come in questi 3009, lo Smither. Era drammatico, mi segnava segnali bassissimi, cioè non li tarano proprio in fabbrica, li buttano fuori così come escono dal calderone, capito? Va bene, sono andato a salutare, solo che mi stavo per fare il caffè e non solo. Dai, ciao Riccardo, ciao Luca, ci sentiamo. il caffè. Mi hai ascoltato, adesso vorrei provvedere a fare qualcosa. Il caffè a quest'ora, Marco, ascolta, una cosa ti volevo chiedere, ma secondo te la vendono la cornice, ma non la cornice, il frontalino di questa radio, si trova? Ah, proprio il frontalino, e lui, io ho visto manopole di ricambio, più che altro manopole, però cornice e frontalino non ne ho mai visto venduti da soli, a meno che non siano stati tolti da apparati magari nuovi ma bruciati, recuperati insomma da qualche altro apparato. Comunque si può guardare su eBay o su Google, metti frontalino, oppure in inglese front cover, credo, front cover Superstar 3009, oppure cornice come in inglese, aspetta, cornice non ti serve, hai detto che è buono, il frontalino proprio. E il front cover penso, comunque posso dare un'occhiata anch'io, però Milu, io già ho visto i prezzi delle manopole degli Smithers, tipo uno Smithers te lo fanno pagare 30 euro più le spese, è roba folle. Voi se ci dà un'occhiata. Sì, perché alla fine mi dispiace tenerlo, cioè non è vecchio, però è meglio che sia come dico io, va. E insomma non lo puoi variare che sia graffiato un po', dai, anche l'occhio vuole la sua parte, giustamente. Esatto. Hai visto, intanto Natalino l'ho ordinato nuovo, va benissimo, lo Smithers vabbè, è tilchio anche lì, ma almeno è nuovo, già lo sai, dai. Penso che abbiano, e poi l'ha preso su eBay, lo sai, il venditore credo che sia spagnolo, ma l'ha preso da, scusami, non eBay, da Amazon. È probabile che sia, vedendo il prezzo è col venditore spagnolo che lo vendeva tipo a 162 o roba del genere, però potrei sbagliarmi. Vabbè, comunque l'acquisto è fatto, si può dare un'occhiata in internet e vedere, a costo mi di trovarne uno bruciato, mi, se vuoi ti brucio il mio, mi, gli inverto i poli e ti e ti do il frontalino, tutti i ricambi ti do, quelli estetici però. Ho scritto un metodo, tu l'ho trovata, aspetta, non so se è scritto new, cioè 31 euro costa, spedita, poi non sposto Italy, postage. 100 euro, ma cosa, il frontalino, ma completo o solo frontalino? Oh, c'è scritto, no, 31, è manco 31 euro, l'americano sono $39, poi c'è, aspetta quando va a foto, aspetta. Sì, allora è dagli Stati Uniti, 100 dollari, vabbè. E sommate, comunque ti fanno pagare un sacco le, cioè alla fine se ne prendi uno nuovo, va bene. Ricca, vai. Luchino o Lucrezia, come sto andando adesso, più forte? Fai 1, 2, 3 prova e 3 prova radio, non sarò poco più forte adesso, sì, sei in off. Raffa, adesso va bene. Comunque costa 30-31, so cosa sia, boh. Ci sono, c'è il frontalino, la cornice e le manopoline. Sì, tutto ti stanno dando, insomma. Però non spedisce all'Italia, così è. È solo per il mercato locale, sarà. Vabbè. Poi il frontalino certe volte non ti corrispondono le serigrafie, lo sai lui. Magari ti trovi anziché il canale 9 di emergenza, ti trovi più 10 kHz, capito? Vabbè, quello è il meno. Dai, signori, vi lascio. Vado a guardare qualcosa in TV, ok? Ciao, ciao a tutti, ciao Luca, ciao Riccardo. Vai Luca. Ciao Marco, ciao. Ciao Marco, alle prossime. Adesso vai a farti il caffè e poi vai a fare colazione, che da te il fuso orario è diverso. Io fra un po' praticamente faccio colazione a mezzanotte e vivo da vampiro, capito? Sì, comunque lo faccio spedito in Italia. Ehi, sarà dagli Stati Uniti, sarà lui, vedrai. E linea non vedi di quegli apparati. Comunque è nuova, completa di manopole. No, è quello lì, CH9, è uguale identica a quella che sto cercando io. È uguale identica. Via BC sì, sì, è proprio quella. Potrebbe essere in sterline. Il simbolo, che simbolo c'è dove c'è il prezzo? C'è la eccia, dai, questo simbolo qua sto domanda, aspetta. Sì, potrebbe essere sterline, di solito, visto che molti venditori inglesi hanno nome di roba per l'Europa, che non trovo in Italia, ovviamente non trovo in Italia. Vabbè, dopo me li guardo, dai. Vi saluto, dai. Ciao a tutti, ciao. America. Sì, anche io vi saluto e vado, che mi stanno chiamando, così faccio carica veloce e posso tornare. Ciao Luca e ciao Marco, tutti gli eventuali orecchie di porco, ci sentiamo più tardi. Via, ciao. Si è avvicinato a questo tipo, mi ha tolto, non sto lavorando, cazzo, non c'ho da mangiare, non è che mi puoi dare qualcosa, cosa vuoi frate, dimmi cosa vuoi che io te la do, non ti preoccupare. A me lo stai dicendo, lo conosco, ho conosciuto la famiglia io, i fratelli. Anche io. Tutti i panettieri, tutti, come si chiama, pizzaioli. Ehi, allora era un panettiere fa. Tutti incendiati mi sono, madonna. Infatti un po' mi fanno male i piedi. Insomma, io c'ho anche un po' di febbre, c'avevo freddo poco fa. E protezione, non è un vivo. Sì, che me l'ho messa, ma me l'ho messa dopo. E tu fai il momento di carabinieri. Vabbè. Perché prima di tutto i piedi si bruciano, perché ovviamente quelli stanno, se li bagni al mare, io il bagno l'ho fatto perché l'acqua era fredda, freddissima, è normale, poi prendi il sole, sai, l'acqua salata è maledetta con il sole, poi, uia, la prima cosa che mi sono bruciato sono i piedi e poi tutto il resto, uia, per carità. Cappagappa, vabbè, già passa, E quindi sei già abbronzato, adesso spillimi. No, io già abbronzato, io già, non mi so riccio, Devo sole. Oia, c'è un po' di gente, pieno, la rotonda era piena. Io c'è un vero io, dove avevo Maria, era poca gente, quasi niente. E poi con la scusa di questo... di questo virus, la gente ha paura anche ad andare al mare. Io evito dove ci sono accalchi di gente, la verità, io evito. Beh certo, meglio evitare, forse valuto tu per il problema che hai. E ma un po' tutti, non c'è nessuno, non c'è nessuno che praticamente non si prenda il virus se si è a contatto con qualcuno che ce l'ha, vabbè già. Quelli devono stare molto attenti, i diabetici, l'hanno anche detto, molto attenti. Sì, tutti quelli che hanno patologie devono stare attenti, anche i malati di cuore, cardiopatici, eccetera, eccetera. Tutti quelli che hanno delle problematiche devono stare attenti, gli anziani. Ma ha preso anche bambini, ha preso anche ragazzi giovani. Quel ragazzo, hai visto quel ragazzo che aveva i polmoni mangiati dal virus? E con la sarda di Serramanna, mi pare, che gli è morto il figlio col trattore, ha dato i polmoni del figlio e ha salvato quel ragazzo. Ah, sì, già ho sentito. Quello è un buon atto, Certo che è molto difficile per una madre far prendere gli organi del figlio e cose, è una cosa un po'... però ha fatto una buona cosa, almeno sa che sta facendo una parte del figlio, sta facendo vivere un'altra persona. Si conferma, è vero. È vero, è vero, ha dato un'altra vita. Quello era la morte certa, non respirava più e con quei polmoni, erano tutti disastrati. Ci credo. Che cura che mi è passato? È un casino. Ma ci credi che come sono arrivato a casa ero stanchio, poi io non ho dormito manco bene, mira che ti rigira, vabbè, ci sono stati presto, colazione, poi una cosa e l'altra, poi sono messo a pulire, mi sono messo nel divano così, però sai, come siamo rientrati, doccia, mi sono andato subito a soggiorno, mi sono avuto un mito già, ma stavo guarda di un dio, stavo benissimo, poi vabbè, mi sono svegliato che dovevo rientrare qua, infatti dopo faceva pure la mamma, ma stavo bene veramente, ero proprio in relax, perché ormai non riuscivo a dormire, perché a secondo c'era che è troppo caldo, se tu metti l'ombra c'era freschetto. Mia Eugenio, mia, avanti Eugenio. È in Visese, Eugenio. Ciao Eugenio, ben sentito, dai. E allora, qua siamo. Stiamo aspettando che altri gente per fare notte come ieri. Ieri notte la sera che l'abbiamo chiuso a 1:20. Io so chi sia. Ciao Eugenio, mi ascolti, sì. Ah, no, questo è tutto bruciato, Eugenio, tutto bruciato. Che bastardo. Questa moto di Marco, già, cazzo mia moto si brucia. No, già. Io riconosco le moto di Eugenio, dai. Lo vedevo sempre girando a Porto Torres. Ma c'è tutta moto di Marco, cavolo. Bello, insomma. E mantenute prima con le moto. Lucidate, fatte, un po' di cura ci può... Perché ne ha altre? O solo quella che ho visto io? Due ne ha! Ah, due ne ha, cavolo! Vero G? No, Luca stava dicendo se è solo quella che ti ha visto la moto, ho detto no, ne ha due, se non è che l'ha venduta l'altra. Lo sento basso già. Ha detto che ne ha due, una la tiene in soggiorno a casa. Ah, ho capito. In soggiorno? 500.000 km. Ti ribari. Tu sento, perché ho visto la foto della moto. Te vuol dire lui? Gli ho fatto rimanere, si è fermato. E poi mi sono preso, dai, poi abbiamo fatto lavorare a quell'indiano che ce l'ha piazzato lì. Marina si è messo il vetrino nuovo già, invece i due miei amici hanno preso la custodia nuova, nel telefono anche l'ho comprata. Dove? Da quelli che sono in bancarella? Sì, alla rotonda, sì. Sì, io che accorto a fare l'aria. Qua no ancora, aspetta già faccio appunto la mamma. Ehi, Quella della notte li stai facendo. Ebbè, buonasera. Eugenio, mi ascolti a me? Buonasera, buonasera, esci tu. Gioca con la scimmia. Gioca la scimmia. Ok, Italia. Tu sei, sta piovendo forte al produttore, se. Sta piovendo forte qua, Sta almeno a casa, proprio in un casino, adesso arrivo l'aria. Bene, bene. Tino sono, ciao. Ah, ciao, sì, buonasera. Con questo ragazzino abbiamo riconosciuto. Va bene, ragazzi, mi prego di salutarti che io sono arrivato. Ciao, ciao, Gigi. Ebbene, Gianni. Avevo la carica. Abbiamo parlato in due. Ciao, Gigi, ciao. Ciao, Gigi, buona carica. E allora, Gianni? E allora, mi sto salendo adesso a portare il cane. Ho fatto da mangiare, ho portato giù. Adesso mi riposo un po'. Non voglio vedere il televisore. Adesso provo a vedere se c'è gente al baracchino. Se no, vuol dire che mi zigo. Non avevo voglia di guardare il televisore. Ho gli occhi stanchi. Oh, io ho mangiato, mi sono svegliato, poi ho ricevuto una telefonata, quindi mi sono dovuto alzare, avevo gente a casa e niente, non mi sono riposato, quindi adesso stavolta non credo di fare tardi. Lo so, purtroppo quando pensi di poterti rilassare c'è sempre qualcuno che ti rompe. No, perché rompe, no? Ma anzi, una visita di piacere. Perché ero carico, l'ho carico qui dentro, adesso mi sdraio, sto qua, stavo proprio nel sonno, invece poi mi sono, forse mi sono svegliato, poi sono dovuto andare a accompagnare mio figlio, anche a riprenderlo, perché è andata mia moglie a accompagnarlo, avevo un appuntamento per vedere la roulotte, una cosa e l'altra, ci avevo dato la serata, ecco. L'hai venduta la roulotte? No, diciamo che sono in trattativa con 4 persone circa, e però tutti in attesa di risposta. Vabbè, se la gente ti può andare in tana, dici, io se voglio una cosa me la piglio subito, guardo e me la prendo. Anch'io sono così, io sono di quelli, visto e piaciuto, è preso, se no mi piace non è prendo. Ma sai cos'è, molta gente ci pensa due volte, io ad alcuni ho messo la pulce in orecchio, perché nel senso che oggi è così, domani magari mi sveglio e non la vendo più. Vabbè, ma te attenzione di prenderti il camper? No, l'intenzione c'è sempre, cosa c'entra, però non ho sentito mai una cosa, così c'è già, fissa, di male a farla, capito? Se avessi avuto garanzie di lavoro, allora ti avrei detto di sì. Ma vabbè, l'idea c'era, hai buone prospettive per il futuro. Sì, da tanto, è che purtroppo, sinceramente parlando, non vedo prospettive per il lavoro, quindi bisogna stare con i piedi per terra. Non so, poi con il tuo lavoro, se c'è un lavoro ti tengono, se no ti mandano via, è un lavoro che non è mai fisso, quel tipo di lavoro lì, quello di carpenteria, di cose, è sempre così, sempre stato così. Io ho amici che fanno muratori, carpentieri, lavorano un po' da tutte le parti, però quando non c'è lavoro stanno fermi e si fanno qualche lavoretto in qualche casa, così, a conto loro, però, sai, non è mai come lavorare una vita, avere lo stipendio fisso. No, vabbè, ma io faccio anche quello, il mio lavoro è tutt'altro. Vabbè, tu lo so che qui la ruspa, che si ruspista. È scavatruista, c'è differenza. E che differenza c'è? Io vabbè, non me ne intendo. Uno è, vabbè, portare l'escavatore è quello dove ti siedi, è un braccio, scavi, fai scavi in sezione, scavi per casa e quant'altro. La ruspa è quella che fa strade più che altro, va. Ah, ecco. Cioè tu fai lo stesso mestiere di Massimiliano o no? Sì, teoricamente sì, però con una differenza mia, se non c'è da fare quello faccio altro. Ti arrangi a fare anche roba di muratura, già lo so. Quello che c'è da fare, Gianni, nella nostra vita c'è sempre stato un po' di tutto da fare, quindi ho imparato nel corso degli anni, ho andato a fare un po' di tutto, anche saldare polietilene, saldare tubi in ghisa, posizionare tubi in gres, tutte queste cose qua, dai. Nell'arco degli anni hai accumulato tante cose che fai un impatto generale e non sei mai fermo, ecco. Perché ho fatto una cosa per l'altra, ho fatto carpenteria, muratura, massetti, pavimentazioni, insomma un po' di tutto, un pacchetto generale, dai. E la ghisa è difficile anche da saldare perché bolle. Io sono saldatore elettro ossi acetilenico, mi sono diplomato come saldatore elettro ossi acetilenico, nel professionale. E la ghisa l'ho saldata, a casa bolle come devi rimetterla a raffreddare piano piano, poi metterla nell'acqua se no si spacca. Un caso, no, di quelli ne ho fatto ben poco però, perché in caso facevo il posatore di ghisa e poi c'era il mio collega che faceva questa roba qua. Però sai, anche guardando molte volte e fammelo provare, fai quello, quell'altro, qualche pezzo là, l'ho fatto anche io. Non sono specialista, questo lo devo ben chiarire. È una cosa difficile la ghisa da saldare, non è così facile. Devi smussare e poi fare il riempimento, tutto quanto, piano piano, perché ti bolle. Va in ebollizione. Poi tubi in crest, quindi devi fare i basamenti perfetti perché devono combaciare tutto il piano di posa, insomma ho fatto qualche chilometro di saldature in polietilene, sia testa a testa che elettrosaldato, quello sì. Cappa, quando ero a scuola sai quanti pugni di ferro sul bilancio ne ho fatto? Sì. Facevo per gli amici cosa, io ho fatto un pugno di ferro, ma voi l'avete giunto allo sacro cuore, udizi che si deve a Valdetta, alle quella di una russa, tutti scappando sui tetti, tutte le macchine che circondano il sacro cuore, tutte le macchine della polizia sono scappate sui tetti della scuola. Briconcelli. Cazzo ne ha barraggiato. C'era anche uno che aveva, come si chiamano, con la catena, con i... che usano i cilici. La sapeva usare bene. Tutto per questioni di ragazze, perché certe ragazze di Via Valdetta venivano in Greffa Nostra, capito? Erano gelusi. Ah, gli unciac. Esatto. Erano gelusi, capito? Se una della Greffa Via Valdetta veniva nella nostra Greffa, faravano i cudici. No, io vabbè, no, ci ho frequentato un po' lì a Sacro Cuore, non tanto, però ero ragazzino. Ma più o meno, quando c'ero io sicuramente, io ci sono stato tanti anni a Sacro Cuore, mi sono sposato a 29 anni, quindi immaginati. Cos'è, non mi ricordo il cognome, c'era Giampiero lì, Massimo Galerana. Ignazio, che adesso è giovane, non mi ricordo i cognomi, più che altro mia sorella se ne ricorda perché erano gli amici suoi. Ah, ecco. E dunque io ci sono stato un bel di anni, ma io sono stato nel periodo caldo, nel periodo di Raffarraduggi, che adesso veniva a Farraduggi, Rogaridale. Poi il periodo dei gavettoni, cazzo, vedevano le macchine passando con finestre abbassate, li buttavano il gavettone dentro, cazzo, facevano il bagno, quindi si ne varava in casa d'unito. Ma quando facevamo, vabbè, io parlo nell'85 se non mi sbaglio, che aveva fatto quella nevicata storica, allora ci mettevamo, io fronte al bar di mio padre in via Grazia Veneta, mio nonno aveva un furgone lì proprio parcheggiato di fronte al bar, nell'lato strada destra, diciamo, scendendo, e facevamo le palle di neve, quando scendevano le macchine, la fede tiravo al vetro, e questi qua toccavano fuori, gli altri si trovano in via Sorso. Perché magari pensavano fosse qualche persona, e il gioco delle pattane, quando le macchine usavano le pattane da miele, in ferro, cos'hai? Tipo come era, ti posso dire, la 500, la 600, e avevamo una pattana vecchia, quando passavano le macchine buttavamo la pattana nella strada e si fermavano a controllare se avevano preso le pattane. E invece eravamo, vabbè. Oh, yeah. Mi aggasiva. stato anche Paperino lì, ci ha perso, perché una volta ha visto questo nostro amico che aveva comprato il cavallero nuovo nuovo, e io faccio vedere il cavallero regolarmente a casa sei marci, ah, io faccio vedere se impenna quella pila del pinnando, grazie per la Paperina da lì, l'ha bisseguito, l'ha bloccato, gli fa mettere in moto la moto, ma mette a rubolosa, ma se l'ho ritirata oggi la moto, è nuova nuova. No, non mi interessa, ma mi interrompono, non so, mentre cazzo l'ho preso, gli hanno staccato la candela della moto, Paperino, gli hanno messo la carta sotto e poi gli hanno chiuso il cappuccio. E gli ho detto, va bene, io documenti non ne ho, se vuole mi seguo a casa mia, dove abiti là. Cazzo, questo qui, vabbè, vado avanti che la seguo, cazzo, ha preso, andato a mettere in moto, e tutti, tutti ridendo, cazzo, vi acchiappo tutti, prima o poi, cazzo, scappare. Ma allora, prima già, ce ne combinavamo di queste cose, dai. Noi eravamo, noi facevamo un gioco, Tino, che se ci penso adesso, eravamo pazzi. Ti mettevano le mani nel collo, ti facevano svenire, poi ti davano due schiaffi e ti facevano riprendere, capito? Era un gioco. Un gioco per noi era, ma lo sai che cosa comporta? Che nella vena aorta non passa sangue, nella giugulare. E puoi morire perché non sale sangue al cervello quando fai così. Come se ti stessero strozzando. Quello sono giochi pericolosi. Io ho fatto facevo passare il torcicollo, no? Cioè, c'è la presente quando prendi, per dire, da dietro la nuca e davanti al mento, no? Lo alzi appena il collo, poi a un certo punto lo giri di scatto verso destra, verso sinistra, no? Quando il torcicollo ti passa, però molte volte può essere anche pericoloso, perché se non cadi l'osso del collo, capito, se però non lo fai. E sono manovre allucinanti, dai, che da ragazzo non ci pensi, ma cazzo, fai delle cose che sono proprio, poi scendendo con i cosi, i giochino se ne sai quali erano, scendendo dalle scaline che ci sono Sacro Cuore elementari, con un foglio di compensato, quando scendevamo le scaline, grazie a tutti gli altri, di colpo, ti spingevano, quando scendevi di colpo, facevi lo scivolo, se si puntava poco a poco ci uscivi dalla casa e ti chiudevi un gabbo ai gradini. Ma se non c'eravamo qui i pantaloni consumati da questi giochi che facevamo. Monopattini, a partire dalle scuole San Giovanni Bosco, un po' più su, sino ad arrivare al tabacchino di Titi di Gomma. Cazzo, facevamo le gare, arrivavano i vigili, cazzo, con la macchina, prendevamo il monopattino, via, tutti scappando. Non si acciappavano mai. Allora sì, si usava un sacco la ruga russa, oppure quei giochi della ruota della bicicletta, un pezzo di ferro a farla ruotare, oppure quei giochi con il bastone, come si chiama, la cirinella, boh, non me la metto più, le facevi saltare il legno e poi lo tirate, ma quelli erano giochi belli, perché insomma sì, l'ingegno era quello. E la valigetta mai fatta? Puttami la valigetta, io. Per carità, vabbè. No, ma noi eravamo tranquilli, dai. Sia che poi siamo andati a abitare la Croce e allora la destra era un pochino più maliziosa, diciamo, più gente un pochino più sveglia del monte, perché io ho fatto mezza gioventù al monte e poi all'età di credo 11 anni, sì, 11 anni sono andato a vivere alla Croce, no? Da 11 anni in poi ero alla Croce, quindi ho conosciuto una bella marmaglia, però niente a che, cioè, ognuno sia, diciamo, sia la testa sulle spalle, sa come andare avanti, ecco. Io tutti quelli che ho lasciato a Sacro Cuore o sono morti di overdose o sono finiti in galera, tutti gli altri mali sono finiti, ce ne sono pochi, uno che sta lavorando in banca, ce n'è pochi li conti sulle dita, quelli in gamba, gli altri sono tutti finiti male, tutti in mezzo alla droga, tutti in mezzo, mamma mia. Io a una certa età da Sacro Cuore me ne sono andato, nel senso che non ci frequentavo più, abitavo ma non ci frequentavo. e andavo in Piazza d'Italia, c'avevo la Grefa in Piazza Castello, Condone, eccetera eccetera, quindi andavo a ballare tutti i sabati, venerdì e cose, avevo altra gente, avevo conosciuto, capito? Sì, anche noi, là, quando eravamo lì alla Croce, a parte che la nostra Greffa, che mi ricordi era come il 96, perché eravamo contatti, no? Però poi ci siamo divisi nella piazzetta dove c'è il treno, non so se ce l'è presente, e quindi facevamo la zona bassa e la zona alta, sempre nella piazzetta, ma eravamo tutti assieme, sì. Sì, che ce l'ho presente, lì abitava Monica, un'amica mia, Monica Baccio. Non lo so. Ma quelle case lì dei ferrovieri? Proprio lì, faccia l'angolo la casa, faccia il vano, tu scendi dove c'è il supermercato, no? Arrivi sino alla fine della via, quel palazzo che fa angolo abitava lì. Ho capito. E noi eravamo lì. Poi abbiamo deciso di andare un po' in Piazza Italia, insomma un po' rimanevo lì, un po' in Piazza Italia, poi quando finivo la Piazza Italia scendevi lì, insomma, ma io mi sono divertito, caspita, magari tornare indietro. Anche io mi sono divertito, però facevamo cose, era una bassona che ci faceva crepare dalle risate, ci metteva il sud di con la lenza attaccata, si nascondeva dietro le macchine, però quando passava la gente si guardava attorno, si tirava a prendere i sud e lo tirava con la lenza. Andare, va a bruciare, adesso guarda, faccio una doccia e poi mi incorico perché sono stanco della giornata, la giornata addosso. Perché ti devi riposare, non ce l'hai fatta, vabbè, vai tranquillo, non c'è problema, vai pure. Chi c'è rimasto? Boh, guarda ascoltone, va bene, ciao già, a domani, buona giornata per domani, ciao. Ciao a te altrettanto, buon lavoro. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? E tra poco mi farà l'aria. Gianni? C'è qualcuno qua su 10? Sento 10, c'è qualcuno sul canale 10? Hola? Ora? E avanti. E chi è? Indietro. E ho detto pochi secondi fa, c'è qualcuno su 10, ho tenuto acceso, boh, non ha risposto mica, sei entrato tu. No, veramente io ho acceso subito la chiusura della portante, senza sentire neanche il nome, però il intuito ho subito. Vabbè, già il segnale mio già penso che sia abbastanza riconoscibile, visto che siamo così vicini. Sì, già lo sai, no? Però sai che mi devi comprare lo smitter nuovo. Se non li metti un coso, un elastico da una parte a sinistra, quando tira non va troppo avanti. Ogni volta va a sbattere, mi sa che mi devo mettere tipo un tamponcino fine cosa, così non si rompe la secchetta. Ma un gommino dove sbatterli, fai un gommino di lì, così non si crepa il coso, l'ago. E aspetta, questo è niente, quando attaccherai tu mi farai danno anche a me lo smitter. No, qua. Ti puoi immaginare, ti arriverò 9,50 sarà troppo. Tu dici, allora ti hai presente, l'audio mi arriva a 9,60 e certe volte anche di più quando c'è qualcosa sotto. Antonello quando attacca idem, c'è Bracco che arriva a 9,50, lui con la tromba d'Acchino, e sono molto più su di te. Però io a 4 bassi ci arrivo di poco, eh. Allora tu sei 9+30 adesso, fatelo conto, che ne sai, le situazioni critiche, e sei già 9+30. Ho capito, dai, mi dai l'apparato e te lo modifico, dai. Devo fare l'ingresso, anziché a 300, a 150 microvolt, me lo faccio a 300, come l'ICOM, l'ICR7000. No, ti faccio un buco col trapano davanti, ti metto un tasto, così, conoscendo di ruota sa che lo smetta. Ma se no glielo allunghiamo, cioè faccio fare la rotazione a poco tra chilometri di macchina, circolare anziché solo a 180 gradi. Tu qualche volta mi fai fare lo smetterà di quello che si muove anche lo strumento a fianco, queste le pare stazionali, eh. E meno male non c'hai quello a LED, se no cacchio ti illuminavo la stanza. Ma le illumina il Kenwood. Ma io ci credi, quando andiamo in FM e questi qua, non ho mai capito per quale motivo, questi K in FM arrivano a fondo scala, segnali che sono di 9 arrivano proprio sbatte lo Smith e la manetta, non ho mai capito per quale motivo, io molte ho paura che per questo mi bruciano lo Smith. Per risparmiare, c'è presente come fa con dei modulatori, i filtri che ci sono, in realtà i filtri che usiamo in AM per l'FM dovrebbero essere un po' diversi, ma si sono distinti. E allora, a seconda di come crede l'apparecchio sensibile, perché logicamente più lo fai selettivo e più lo puoi fare sensibile.